I already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Sending the Republicans to solve this economic crisis is like sending the bull to clean up the China closet. They broke it and we're not buying it anymore. Barack Obama. La riconoscete questa voce? È quella di Hillary Clinton che finalmente, come dire, si è mossa decisamente. Sta dicendo che mandare il Partito Repubblicano a riparare i danni dell'economia americana in questo momento è come più o meno mettere il solito elefante nella cristalleria, meglio lasciar perdere e poi non chiedere neanche i danni, tanto l'elefante non te li ripaga. Di fatto l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e Hillary, sua moglie, che vi ricorderete sicuramente, è stata la più fiera contendente, no, di Barack Obama per la nomination democratica per la Casa Bianca, ieri e oggi si sono impegnati seriamente in due giorni di comizi nell'area della Pennsylvania nel tentativo di sostenere la candidatura di Obama. Si sono presentati soprattutto a Scranton, che è la città natale di Joe Biden, e insieme proprio a Joe Biden hanno tenuto un comizio compatto e particolarmente monitorato dai media americani. Il trio Biden, Clinton, Clinton, insomma, ha portato acqua al mulino di Barack Obama. Al punto che le cose sembrano andare piuttosto bene sotto il sole della candidatura democratica, se è vero che il Washington Post ha appena reso noti dei sondaggi che parlano di 10 punti, addirittura un margine importante, 53-43 a favore di Barack Obama nelle elezioni, quando mancano ormai 22 giorni al giorno fatale, alla data fatale del 4 novembre. Ci sono anche altri sondaggi meno ottimistici per gli andamenti democratici. Zogby, ad esempio, riduce a soli 4 punti percentuali il vantaggio di Obama, anzi con un lieve recupero da parte di McCain. Secondo Zogby, 48% degli elettori sono pronti a votare per Obama, 44% schierato a favore del senatore dell'Arizona John McCain, quindi esiste ancora un cosiddetto margine di discussione. Nel frattempo il primo ministro Berlusconi è alla Casa Bianca e tra poco vi trasmetteremo anche un intervento con Maurizio Molinari della Stampa, che è sul posto e sta seguendo la situazione. Quattro chiacchiere che abbiamo fatto appena prima dell'inizio della trasmissione. Di fatto l'arrivo di Berlusconi alla Casa Bianca è stato piuttosto spettacolare, ma non vi rovino la sorpresa, lo lasciamo raccontare per voce di Molinari. Però invece vi possiamo elencare fin d'ora i doni che sono stati portati dal nostro rappresentante a George W. Bush: uno splendido vaso di ginori con raffigurate le tre grazie e una cassa con decine di cravatte e foulard marchio Marinella, che insomma ormai è il marchio ufficiale della bellezza politica dei politici in Italia, eventualmente anche nel mondo. Insomma, Berlusconi ha fatto questo consistente regalo al suo amico Bush. 16:55 è l'ora prevista, chissà se riusciremo a intercettarne magari proprio la testa all'inizio, comunque della comunicazione congiunta che Berlusconi e Bush faranno nel Giardino delle Rose, il luogo open air, all'aria aperta, dove si va quando c'è il bel tempo, alla Casa Bianca per presentarsi alla stampa. Si dice che nel pomeriggio dovrebbero essere confermati anche questi contatti telefonici tra Berlusconi e sia John McCain che Barack Obama, che naturalmente sono in giro per l'America nel loro tour elettorale. Poi la giornata di Berlusconi prevede anche una visita alla National Gallery insieme a Laura Bush di una mostra su su Pompei, uno dei marchi italiani che continuano, devo dire, da un paio di migliaia d'anni ad essere molto ben venduti nel mondo. E per la serata c'è un galà con numerosi ospiti della comunità italoamericana. Passiamo ai fatti della campagna elettorale vera e propria, perché il weekend è stato tutt'altro che sonnolento, anzi sono successe parecchie cose, soprattutto ci sono stati numerosi, diversi, diversificati aggiustamenti della temperatura. Io partirei dal farvi ascoltare prima di tutto la voce di John McCain, da lì poi ci inoltreremo in una breve ispezione. I will fight. But we will be respectful. I admire Senator Obama and his accomplishments. I will respect him. And I want, I want everyone to be... Questo è John McCain che davanti a una folla di fans repubblicani sempre più incattiviti. Questo è il dato importante, insomma, a buttare benzina sul fuoco, il fuoco brucia più alto. Gli ultimi giorni della scorsa settimana sono stati giorni in cui il tono e il dibattito si è alzato enormemente da parte repubblicana. Vista la mala parata per quello che riguarda il confronto sulle questioni economiche, si è deciso di cambiare registro e di passare agli attacchi personali. Gli attacchi personali, quelli dichiarati sulle posizioni di Barack Obama, e gli attacchi personali meno dichiarati, più striscianti, relativi alla affidabilità del personaggio Obama. Ricordo che non più tardi di qualche giorno fa John McCain, di sua voce, con mie orecchie, io ho sentito dire non so se posso fidarmi, vorrei potermi fidare del personaggio Obama. Adesso John McCain deve fare marcia indietro e lo fa per il bene della sua campagna e per situarsi poi, per posizionarsi in un punto, diciamo, strategico dal quale possa poi affrontare mercoledì nel debate che ormai incombe, l'ultimo, quello decisivo, Obama, insomma, senza dover pagare il prezzo dell'imbarazzo. E quello che ha appena detto alla sua gente John McCain è attenzione, io e Barack Obama abbiamo posizioni molto diverse, su alcune questioni non andiamo d'accordo per niente, ma non per questo io non penso che Barack Obama non sia una persona decente, dignitosa, un padre di famiglia, una persona per bene. Siamo avversari ma non nemici, non corre disprezzo fra di noi. A un certo punto però la situazione era calda, le immagini di questo dibattito erano piuttosto impressionanti, perché si è capito ormai che la temperatura emotiva del confronto è salita anche perché i politici l'hanno fatta salire, e a salire sul palco è una vecchia signora dai capelli bianchi, dall'aria inerme, che però guarda negli occhi John McCain, gli dice: ma io non capisco, io non riesco a fidarmi di quest'uomo Barack Obama, secondo me, poi esita e dice una parola pesante davanti a quel pubblico, davanti alle telecamere: secondo me è un arabo. I can't trust Obama. I have read about him and he's an Arab. He is not. No, ma'am. He's a decent family man, citizen that I just happen to have disagreements with. E questo è John McCain che torna a intervenire, dice: no, ma'am, no, signora, non. Non cominciamo a salire o a scendere, comunque non intraprendiamo questo cammino, che è il cammino sbagliato, è il cammino dell'odio, è il cammino del disprezzo. Non è un caso che ieri sia intervenuto anche John Lewis, uno dei leggendari, insomma, portabandiera delle battaglie, grandi battaglie per i diritti civili degli anni 60, un afroamericano, un deputato della Georgia, che ha detto: è molto pericoloso, stanno giocando a un gioco pericoloso i repubblicani in questo momento, perché stanno riaccendendo le micce dell'odio e della divisione. Se andiamo su questa strada, qualsiasi cosa potrebbe succedere. Non è un caso che addirittura il vecchio Fidel Castro da Cuba ha preso il megafono, ha provato a farsi sentire, a dire: ma Obama tutto sommato è fortunato che ancora non abbia subito un attentato. Insomma, McCain ha fatto il pompiere della sua campagna elettorale, siccome poi ha il tocco, siccome ha la classe del politico navigato e comunque di grande qualità, probabilmente è riuscito a operare il contenimento, ma questo è stato il primo fattore di agitazione del weekend. Il secondo dopo un po' di musica. Mettiamo a caso Aretha Franklin a questo punto del nostro discorsetto, perché dicevamo prima la razza, il fattore razza, quello di cui non si era parlato, anche perché Barack Obama non aveva avuto parlarne mai nel corso della sua campagna elettorale. Lui non ha mai voluto considerarsi un candidato razziale, anche perché questa è naturalmente l'anticamera di una sconfitta, però a parlarne è stato John Lewis, che è un veterano, un anziano, un uomo di grande rispetto all'interno della politica americana, e quando ha detto che i toni usati dal ticket McCain-Palin nelle ultime ore gli avevano fatto pensare a George Wallace, l'uomo politico del sud, dell'Alabama, noto segregazionista, per quattro volte candidato alla Casa Bianca, una volta col Partito Democratico, per tre volte come indipendente, con un partito diciamo formato ad hoc, battendo la bandiera dell'apartheid, tra le altre cose. Insomma, è chiaro che il tenore di questa campagna è salito enormemente, la temperatura si è riscaldata. Ci ha messo del suo anche Sarah Palin, però lo ha fatto secondo le regole. Sarah Palin in questo momento è in grande difficoltà personale. Come sapete, il Trooper Gate, ovvero lo scandalo che l'altra volta non è appena apparsa alla ribalta nazionale e internazionale, riguardante l'abuso di potere nell'evento del licenziamento di un poliziotto ordinato a un suo sottoposto, insomma una questione che poi aveva sede nel divorzio di sua sorella dal marito, un marito pare peraltro violento, che viene allontanato su pressioni di Sarah Palin, si è risolto con un 1x. C'è stata una commissione che ha detto che l'abuso di potere c'è stato, ma ci sono state anche parecchie sfumature a completare il giudizio, spiegando che comunque può esistere una lettura che inquadra il comportamento della Palin all'interno dei suoi diritti costituzionali in quanto governatore dello Stato dell'Alaska. È una storia probabilmente destinata a non avere gran seguito. Di fatto la Palin ha compiuto un'azione diversiva, ovvero si è messa a parlare d'altro, e l'argomento che ha tirato fuori è un argomento che funziona sempre su un certo elettorato, molto rischioso su altri elettorati, comunque uno dei prevedibili capisaldi della personalità politica di Sarah Palin, per come ha inteso partecipare al ticket con John McCain. Stiamo parlando naturalmente di aborto. A lot about yet in the campaign, but I think it's important. It's, as governor, what I've been able to do is kind of manifest my commitment to life. In the same spirit. Ecco, abbiamo appena ascoltato Sarah Palin dichiarare tutta la sua fedeltà al principio della vita, al principio pro-life. Sarah Palin è una ardente pro-lifers, ovvero è una nemica giurata dell'aborto, dell'interruzione di gravidanza in qualsiasi situazione possibile, fatto salvo alcune occasioni in cui possa essere considerata ad altissimo rischio la vita della madre, quindi una posizione lontanissima, estremamente agli estremi opposti rispetto alle posizioni espresse da Barack Obama, che invece non vuole in alcun modo toccare la sentenza della Corte Suprema sullo storico caso Roe contro Wade, quella che in un certo senso sancisce il diritto all'aborto delle donne americane. Dove può andare Sarah Palin con una strategia di questo genere? Può andare a stuzzicare l'elettorato ultraconservatore, quello del quale in un certo senso si sente molto la mancanza in questa elezione, perché è stato estremamente silente, estremamente silenzioso, non ha fatto quasi mai sentire le proprie ragioni, e in un certo senso è uno dei grandi dimenticati di questa campagna elettorale. Se ricordate le elezioni del 2000 o del 2004, quanto, in quale misura e con quale peso specifico veniva invocato il posizionamento della famosa destra religiosa, no? Dell'America ultra conservatrice, dei fondamentalisti, tutti termini che addirittura in Italia abbiamo imparato ad usare con una certa disinvoltura per indicare coloro che comunque al primo posto nelle priorità della loro esistenza mettevano la religione e l'adesione ai principi del cristianesimo, e poi veniva tutto il resto. C'è chi ha detto che costoro nel frattempo sono cambiati, che sono ormai una componente attiva e valente dell'America d'oggi. Di fatto questo di Sarah Palin, 10 minuti sui 30 di discorso pronunciato dedicati al tema dell'aborto, sono un po' uno scossone, no? Un tentativo di rivitalizzare questo elettorato, di risvegliarlo, di richiamarlo, naturalmente con il rischio consueto, come sempre connesso a un discorso così duro sull'aborto, di inimicarsi, di spaventare una certa parte dell'elettorato femminile e forse anche una buona parte dell'elettorato indipendente. Tutto ciò perché si va verso il dibattito con cui in un certo senso ci avviciniamo e ci introduciamo ai temi della elezione americana, delle presidenziali di questa settimana. Ripeto, mancano una ventina di giorni ormai al verdetto e siamo all'ultimo appuntamento di confronto diretto. Eccoci in diretta con le nostre cronache dal mondo. Stiamo parlando di Stati Uniti, di elezioni. Vi rimandiamo naturalmente a domani per le anticipazioni relative al dibattito. Vi faremo ora ascoltare la conversazione che pochi minuti or sono abbiamo registrato con Maurizio Malinari. Prima, solo per gli appassionati di David Letterman, del Letterman Show, so che sono tantissimi in Italia e anche tra i nostri ascoltatori, dirò che allora è confermato che giovedì sera, quindi probabilmente lo vedremo venerdì in Italia, John McCain alla fine andrà al Letterman Show. Forse ricorderete la vendetta consumata da David Letterman allorché McCain gli ha dato un paio di buche, non è andato nel suo show. Letterman disse: mi sento come una fidanzata brutta, poi disse magari gli hanno messo qualcosa nelle gocce, nel suo metamucil. Insomma, gli ha fatto parecchi dispetti, adesso anche perché naturalmente di visibilità in questo momento non se ne ha mai abbastanza. John McCain ha accettato e giovedì sera dovrebbe sedere nello studio della CBS di New York ed essere ospite e conversare con David Letterman. Tra l'altro i due sono amici da un sacco di tempo, ma ci spostiamo alla Casa Bianca, dove Maurizio Molinari della Stampa sta presidiando la situazione, perché dentro ci sono George W. Bush e il suo amico Silvio Berlusconi per quattro chiacchiere attorno a questa visita e all'aria naturalmente che tira in America in questo momento di crisi. A riguardo c'è un bel articolo di Molinari sui manager, i grandi manager che devono cambiare abitudini, ma non vi anticipo altro e vi faccio ascoltare l'intervista. Allora, siamo in linea con Maurizio Molinari della Stampa, che si trova in in questo momento alla Casa Bianca. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a voi. Allora, no, prima di tutto dacci qualche nota di cronaca, di colore o magari anche qualche cosa in più su questa visita di Berlusconi. Che cosa c'è nell'aria? Che cosa hai sentito? Beh, la Casa Bianca ha ricevuto Berlusconi con un'accoglienza da re, divisa in alto uniforme, il picchetto d'onore, 19 colpi, saluto da parte dei cannoni, insomma, solamente la regina Elisabetta, il Papa Ratzinger e Eugene Tao avevano ricevuto un'accoglienza di questo tipo. I due presidenti hanno parlato dell'amicizia personale, ma anche dei valori che li accomunano: la lotta per la libertà, la sfida al terrorismo, la costruzione delle nuove democrazie nel mondo e anche la necessità di affrontare la crisi finanziaria globale. Di questo stanno adesso andando a parlare nell'incontro nello studio Ovale, che durerà un'ora. Sì, pare che alle 16.55 si è annunciata la conferenza stampa congiunta. 19 salve di cannone, pare che siano almeno 19 anche le cravatte che Berlusconi ha portato al presidente. Abbiamo visto portarle dentro una cassa. Va bene, senti, no, volevo spendere qualche parola sul bell'articolo che hai scritto sulla Stampa il giorno 9, relativo al cambio di costume nell'ambiente, nel settore dei manager americani. Volevo anche metterlo in connessione con un pezzo, forse a questo punto preveggente, che aveva scritto Robert Samuelson su Newsweek qualche settimana, forse qualche mese fa, che si chiamava The End of the Shopping Spree, un pezzo in cui in un certo senso profetizzava forse l'avvento della crisi stessa, ma comunque un cambio di costumi, in questo caso nell'America normale, l'America normale che doveva imparare a smettere di consumare al di là delle possibilità reali. Tu naturalmente hai espanso questo discorso ai piani alti della società americana. Sì, guarda, basta passeggiare in questi giorni per Madison Avenue nell'Upper East Side di New York per accorgersi che qualcosa di nuovo sta avvenendo. E in quella che è la via borgognona di Manhattan ci sono molti negozi sfitti. Questo perché c'è un abbassamento, una diminuzione dei consumi nella fascia alta della popolazione. Se fino adesso la crisi economica aveva toccato i ceti più deboli, la classe media, il fatto che Tiffany o Bulgari abbiano ripensato i programmi di aprire nuovi negozi in Nord America, che su Madison Avenue ci siano dei negozi che non riescono a trovare degli affittuari, il fatto che sui voli di business fra Londra e New York ci siano molti posti invenduti in queste settimane lascia intendere quanto sta avvenendo, cioè sta venendo meno il consumo di lusso, e in America questo è un sintomo preoccupante per il motivo molto semplice che proprio la politica fiscale di Bush, i tagli fiscali erano tesi a tenere alta l'economia, lo sviluppo dell'economia grazie al consumo di chi può spendere molto. Ecco, ma anche sulla base delle immagini della commissione d'inchiesta, dove abbiamo visto sfilare questi grandi manager all'origine, responsabili in certi casi di alcuni recenti disastri, anche in base a quello che leggono sui giornali, gli americani normali, gli americani della Main Street, stanno in un certo senso covando, secondo te, una forma di insofferenza un po' nuova, un po' diversa, più accentuata di prima nei confronti di questi grandi ricchi improvvisi? Esatto, e questo spiega anche i 10 punti di differenza fra Obama e McCain, che proprio questa mattina il Washington Post nel sondaggio con l'ABC assegna al candidato democratico. Quanto sta avvenendo nel cuore della società americana è un senso di protesta, di rigetto nei confronti di chi ha gestito l'economia negli ultimi anni. Questo coinvolge tanto i maggiori manager di Wall Street quanto chi ha guidato l'economia, cioè l'amministrazione repubblicana. Un'ultima cosa, è la settimana del terzo e ultimo dibattito, ci si arriva in un modo un po' strano, no? Con queste schermaglie del weekend, addirittura sulla qualità personale, addirittura con delle insinuazioni così strane, pesanti, con degli interventi di terze voci come quella di John Lewis, che hanno tirato la razza per i capelli dentro il dibattito. Ecco, secondo te alla fine sarà davvero un dibattito sulle questioni sensibili dell'economia o assisteremo a un vero e proprio testa a testa anche tra le personalità, quello che per ora in fondo non è mai andato in scena? Sì, assisteremo a un dibattito molto duro. John McCain, il candidato repubblicano, non ha alternative, dietro nei sondaggi è dato per sconfitto dalla maggioranza degli osservatori. Deve testimoniare di riuscire a mettere in difficoltà Obama, deve convincere gli americani che il voto del 4 novembre non sarà sulla crisi economica, perché questo lo penalizza, ma sull'opportunità o meno di avere Barack Obama come presidente. Insomma, McCain dovrà andare all'attacco e mettere in difficoltà il rivale ora favorito. I just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand. No was all he said. Quello che vogliono, dice John McCain, un John McCain agguerrito, pronto all'ultimo dibattito. Quello che l'America, quello che all'America serve in questo momento è un vero combattente e io sono un vero combattente. Grande attesa a questo punto per l'ultimo dibattito che andrà in scena mercoledì. McCain se la vuole giocare apertamente con tutte le carte che ha in mano. Vedremo come reagirà il suo avversario e vedremo come reagirà l'America. Prima pagina. Allora, veniamo a sfogliare i giornali cinesi che per esempio danno grosso risalto a una notizia che naturalmente per il popolo cinese è fondamentale, cioè dopo 30 anni il Partito Comunista ha approvato una nuova riforma agraria, qualcosa che interessa 740 milioni di contadini. Io non so se nel resto del mondo ce ne siano così tanti. Se c'è una riforma così importante. È un importante. Numero pazzesco. Formalmente non è ancora stata introdotta la proprietà privata nelle campagne, però nei fatti ci siamo. Ricordo che la Costituzione cinese prevede la proprietà privata soltanto nelle città. Cioè si può avere titoli insomma per avere un bene proprio a Shanghai, a Pechino, ma non nelle campagne, e questo ha scatenato negli anni la protesta dei contadini, perché le terre rimangono formalmente collettive, cioè sotto l'egida dello Stato. Bene, questa riforma che è stata approvata dal 17° congresso del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese permetterà d'ora in avanti ai contadini di per esempio affittare la terra o anche di trasferire l'usufrutto della terra ad altri contadini, quindi nella pratica si possono quasi muovere come dei liberi imprenditori. Questo permetterà, secondo calcoli della Nuova Cina, in 12 anni un raddoppio del reddito dei contadini, che lo ricordo sono più della metà, sono il 55% della popolazione cinese. Beh, una nota a margine al Nobel all'economia. Chi probabilmente non gioirà affatto sarà il presidente degli Stati Uniti George W. Bush e soprattutto il suo staff, i suoi comunicatori, perché il Nobel è andato a un vero nemico della Casa Bianca, ovvero Paul Krugman, che è un neo-keynesiano, uno studioso che si è contraddistinto negli ultimi anni per la sua critica nei confronti dell'amministrazione Bush, ma ha fatto qualcosa in più, di molto più più rumoroso e vocale. Ha scritto un paio di volte a settimana dei feroci editoriali sul New York Times che non pensavano quasi ad altro che a crocifiggere le politiche economiche della Casa Bianca. Anche per questo c'è chi sospetta che questo Nobel, in un certo senso, sia una specie di sgarbo finale all'amministrazione Bush da parte degli accademici dell'Accademia svedese. Torniamo in Cina per quella che potremmo ribattezzare, Stefano, sezione contaminazioni. L'angolo della contaminazione. Esatto, del latte abbiamo parlato tantissimo in queste settimane. L'ultima di oggi ci fa sapere che alcuni prodotti alimentari importati dalla Cina sono stati ritirati dalla Svizzera addirittura dopo la scoperta di tracce di melamina. Ma poi c'è un'altra questione che teniamo in piedi da giorni, che è quella dell'acqua contaminata all'arsenico, perché nel sud della Cina sono ormai 450 gli intossicati, tra essi anche 23 bambini sotto i 7 anni e 32 invece persone anziane sopra i 60 che sono stati tutti ricoverati in ospedale. Ricordo che l'acqua sarebbe stata inquinata pesantemente dai rifiuti contenenti arsenico di una fabbrica vicina e, cosa importante, le spese mediche per questi abitanti del villaggio che sono rimasti intossicati saranno sostenute sia dal governo locale che dalla società incriminata. C'è un'altra curiosa, perché sempre nel sud della Cina un pranzo di festeggiamento per un matrimonio si è trasformato in una colossale intossicazione alimentare, ecco, collettiva, che ha portato 170 persone in ospedale. Tutta colpa di uno stufato che era un po' insipido. E allora cosa hanno fatto gli invitati per rimediare? Hanno sparso quello che pensavano fosse del sale, che poi in realtà si è scoperto essere un antiruggine pericolosissimo. E insomma, sono finiti in ospedale, però non ci questo sono. Questo è l'angolo sadico. Questo è l'angolo anche un po' Ben Hill, insomma. Un po' di comiche, però alla fine stanno tutti bene, nessuno è seriamente intossicato da questo incidente. Va bene, l'angolo della contaminazione lo possiamo chiudere. Lo teniamo aperto però per il prossimo giorno. Possiamo chiudere, va bene. Avete scritto numerosi messaggi, lettere, sms di vario ordine e grado. Oggi non facciamo in tempo, domani risponderemo a più interlocutori. C'è Adriano che trova non equilibrato il report relativo alla Palin, ai guai della Palin, ma in realtà, insomma, consultando la stampa americana, non certo la stampa italiana, a questo proposito la sensazione che si ha, ribadisco, è quella che vi ho già detto. Da un lato il suo intervento è stato considerato un abuso di potere, dall'altro, e quindi non motivato nel suo svolgimento, dall'altro la commissione in calce ha comunque ammesso che non ha fatto, Sara Palin non ha fatto niente di irregolare o di illegale, semplicemente è stata dentro le procedure, ma si sospetta, si pensa che lo abbia fatto in questo caso per una storia che non corre veramente nel rapporto professionale con questo personaggio, ma corre invece più vicino a questioni personali. Ma non credo davvero che questa sia una storia centrale nell'andamento finale, nel rush finale di questa elezione. E altrove che si giocheranno la partita. Noi la seguiremo qui da Jefferson Ming, dove io sono Stefano Pistolini, in redazione al mio fianco c'è Emiliano Enrico, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Filippo Aureggi, la mail jeffersonming@radio24.it. Il programma in replica stasera alle 9, in diretta domani alle 4 qui da Radio 24. Bye. poi niente.